una lacrima e non ho più sonno, un secondo spazio vuoto, ora comprendo, vibro, canto, un sorriso e suono il vento, una miscela di membra, amministriamo noi, soggette a difetti e sensibili al tempo, al tempo. Così una coscienza dirige i nostri cuori, percorsi già tracciati da completare. Una lacrima e non c'è, non c'è un secondo spazio vuoto, ora comprendo, ora prendendo un sorriso e suono il vento. Una lacrima e non c'è, non c'è un secondo spazio vuoto, ora comprendo, lo prendendo un sorriso e suono il vento. Il bene e il male, ciò che è giusto e sbagliato, parole e emozioni a rimarcare, finte discrepanze, essere o non essere, Amleto, ma tra esistere o non esistere, la consapevolezza ora c'è, non c'è, oppure c'è. Una lacrima e non ho più sonno, un secondo spazio vuoto, ora comprendo, vibro, canto, un sorriso e suono il vento, sono